Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Ancora Belinelli forzato da tre, segnato da tre. Batte forte il cuore dell'Italia, batte ancora più forte quello di Marco Stefano Belinelli, batte ancora più forte quello di Marco Stefano Belinelli. Rimbalzo di Belinelli, ancora buonissimo impatto sulla partita per Marco, che lo scorso anno al primo turno ebbe enormi problemi contro Dallas. Oh mamma mia, oh mamma mia, cosa ha fatto Marco Belinelli? Cosa ha fatto? Immagino che già abbiate intuito chi sia il primo ospite della puntata di Olimpia di oggi. È l'unico italiano che nella stessa stagione ha vinto la gara dai tre punti all'All-Star Game e soprattutto l'anello NBA con la maglia dei San Antonio Spurs. Ora è uno dei punti di riferimento dei Sacramento Kings, ma soprattutto uno delle grandi punte di diamante della nazionale azzurra di basket, che cercherà nel torneo preolimpico di Torino di ottenere il pass di qualificazione ai giochi di Rio 2016. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Marco Belinelli. Ciao, buongiorno a tutti e grazie mille ancora per avermi. Caro Marco, anche alle tue mani e al tuo killer instinct è affidato un sogno che noi basketari italiani coltiviamo ormai da tempo, quello di sbarcare nuovamente alle Olimpiadi. Prima delle considerazioni tecniche e tutto quanto, le emozioni che ti animano in questo cammino? Boh, guarda, ti dico, sinceramente siamo molto carichi, perché comunque ho parlato, diciamo, con la mia compagna di squadra, con Ettore, con tutti quanti, quindi sicuramente c'è molta carica di parte di tutti per fare bene questo preolimpico prima e poi meritarsi, diciamo, questa qualificazione per le Olimpiadi. Sicuramente sappiamo tutti quanti che prima abbiamo questa qualificazione appunto a Torino, in cui dobbiamo dimostrare di prendersi le Olimpiadi e andare, diciamo, in Brasile. Quindi dobbiamo essere bravi noi, essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Diciamo che siamo sicuramente un bel gruppo, questo l'abbiamo dimostrato negli ultimi 2 o 3 anni, quindi sicuramente questa è una cosa importante e speriamo veramente che da quest'anno arrivi proprio il momento di qualcosa di importante, quindi veramente di un'Olimpiade partecipi e soprattutto, diciamo, anche, insomma, importanti per tutti quanti, diciamo, a far bene. E senti, ci metti anche la faccia in questa corsa olimpica, letteralmente, perché sarai stampato col tuo volto su migliaia e migliaia di lattine della Sprite, insomma, un preolimpico che sarà per te comunque effervescente, dai. No, beh, sicuramente sì, no, sono molto contento di questo cosa con Sprite, è una cosa che abbiamo fatto da poche settimane e non vedo l'ora, diciamo, di vedere questo visone o questo faccione, diciamo, sulle lattine Sprite, quindi sono molto contento, però diciamo che poi quella ovviamente è una parte esterna del basket, anche se comunque facendo parte del business, però diciamo alla fine la cosa che conta più di tutto è andare in campo, dare il 110% e cercare di fare bene per noi stessi, diciamo, per tutti i nostri cittadini, per tutti questi italiani. Quindi cercheremo a testa alta di dimostrare che un gruppo di ragazzi giovani che vuole vincere. Senti, ti chiedo una curiosità che mi viene in mente sentendoti parlare, come ti stai preparando al preolimpico? Cioè, è chiaro che ci sarà il percorso condiviso con la squadra, ma un super professionista come te in questi giorni in cui sei un po' imboscato perché noi tifosi non ti vediamo, ecco, nella tua quotidianità come pensi alle Olimpiadi e come stai lavorando fisicamente e tecnicamente? Ma guarda, adesso è la seconda settimana di allenamento in cui sicuramente mi sono fatto mandare un programma da i Sacramento Kings, un programma, diciamo, anche con Francesco Custolin, e quindi io tutti i giorni, mattina e pomeriggio, ho programmi da fare, quindi questo, diciamo, è il mio allenamento e cerco di arrivare il più pronto possibile, diciamo, in nazionale. Questo è sicuramente l'obiettivo, perché comunque alla fine, sai, più passano gli anni, nel senso che io quest'anno ho fatto i 30 anni, quindi ovviamente la fase, diciamo, atletica e, diciamo, anche il mangiare, comunque tutte queste cose sono importanti. Mi sto, dicendo, preparando per poter arrivare pronto a questo raduno con la nazionale per far bene questo preolimpico a Torino. Quindi, insomma, cioè, di essere pronto e di far bene. Senti, ti chiedo ancora, degli avversari che in qualche modo incroceremo sul nostro cammino verso le Olimpiadi, e speriamo anche a Rio, tanti li incroci tutte le sere nella NBA. Direi che ormai la presenza extraamericana sui parquet statunitensi è un dato di fatto. Chi è che ti ha impressionato di più tra i potenziali rivali nella corsa olimpica e che ha incrociato quest'anno in America? Ma guarda, ti dico, sono tutti, vabbè, quest'anno già con il nostro girone a Torino sono tutte squadre forti, nel senso che ormai quando giochi a questi livelli ogni partita è una partita con una squadra forte, con magari anche uno o due giocatori NBA, quindi sicuramente il livello è molto alto. Noi giocheremo contro la Grecia, dove c'è il mio compagno di squadra Costa Kupos, poi hanno un altro talento che è fortissimo, che è il giocatore che gioca a Milwaukee, e quindi insomma non sarà facile, quindi cercheremo veramente di essere pronti, di pensare una partita alla volta. Ovviamente sai, gli Stati Uniti sono fortissimi, hanno questo Curry, LeBron, che sicuramente sono giocatori, diciamo, di un altro pianeta, e insomma vedremo. Senti, ti chiedo, questa nazionale secondo te è più simile a quella di Mosca dell'80, che rappresentava effettivamente il meglio di una generazione, aveva già dei campioni riconosciuti, uno su tutto i Meneghin, che arrivò all'argento, oppure al gruppo di Atene 2004, che quell'argento lo colse con pieno merito ma anche con grande sorpresa? Buona, questo è, lo direte, diciamo, secondo me voi più avanti, nel senso che noi secondo me siamo una squadra a sé, nel senso che siamo una squadra con tanto talento, giovani, che sta migliorando da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'esperienza, quindi dobbiamo ancora dimostrare veramente di poter vincere qualcosa. Abbiamo una differenza enorme, nel senso che noi non abbiamo ancora vinto niente, la nostra generazione, mentre giocatori di cui ho tanto rispetto hanno vinto in passato, quindi sicuramente siamo, il basket è un po' diverso, diciamo, di come era prima, quindi dovremo stanno, diciamo, a farci dire come saremo magari dopo aver vinto qualcosa, quello è l'obiettivo. Quindi finché non vinciamo qualcosa saremo giocatori sicuramente normali, quindi dovremo assolutamente fare in modo di dimostrare a tutte le persone che possiamo fare qualcosa di importante. Il rientro di coach Messina nel basket FIBA, anche se certo se ne è distanziato per poco, visto che San Antonio tra l'altro è una delle franchigie che forse per molti aspetti è più europea rispetto ad altre, ma dovendo essere immediatamente produttivo in pochissimi giorni in vista di questo preolimpico, credi che anche il coach saprà calarsi immediatamente in questi panni? Ma assolutamente sì, nel senso che Ettore è una persona che ho conosciuto benissimo in questi anni, soprattutto San Antonio, una persona con carattere forte, che vuole vincere, quindi sicuramente avremo una mentalità vincente importante da subito. Sicuramente Ettore ci dà una carica importante in più, senza dimenticarci comunque il lavoro grande fatto da Simone Pianigiani. Quindi dovremo continuare il nostro cammino, cercare di migliorare giorno dopo giorno, e sperando ovviamente di avere Ettore con noi più presto, perché è un'impronta importante per noi, quindi vedremo veramente più avanti cosa succederà sia a San Antonio che dal nostro punto di vista. Marco Bellinelli, allora intanto gli auguri del caso e tutte le scaramanzie le mettiamo da parte, ma non possiamo mettere da parte i ringraziamenti per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi e crepi il lupo, diciamo che proveremo a fare il possibile per far bene, e grazie ancora a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Lui a Rio 2016 non ci sarà perché ha chiuso la carriera praticamente da poche settimane. Dopo aver scritto sul ring la storia del pugilato azzurro e non solo, perché bronzo ad Atene 2004, splendido oro a Pechino 2008 e dolente argento a Londra 2012 in quella finale persa tra i reclami e le proteste per un verdetto apparso a tutti ingiusto contro l'inglese Joshua. Avete già capito che stiamo parlando del grande Roberto Cammarelle, numero uno del nostro pugilato, che ha da poco chiuso la sua straordinaria carriera per diventare direttore tecnico, ed è proprio lui l'ospite di Olimpia di oggi. Roberto Cammarelle, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Roberto, primi giorni da ex pugile, che sensazioni, Roberto? Ma la mia sensazione è entusiasta di questo mio nuovo incarico, tante cose da fare fuori dal ring e sono molto impegnato, sono contento, certo, un occhio sempre alla palestra, ai ragazzi, un po' mi manca. Vero pure che Rio sembra lì a portata di mano, cioè già il conto alla rovescia, manca davvero poco. Ecco, in questi mesi in cui è maturata questa decisione, quanta possibilità c'è stata invece che questa scelta già fatta potesse essere ribaltata proprio per effetto dell'attrazione dei cinque cerchi olimpici? Ma io in realtà mi sono allenato seriamente dall'inizio dell'anno in funzione di una ipotetica qualificazione olimpica. Poi ha prevalso una scelta, diciamo, di servizio, perché dovevo diventare direttore tecnico, c'era questa opportunità e ho preferito non andare avanti con la mia preparazione che mi procurava tanto dolore, quindi è stata quasi una scelta di cuore, ma fisicamente, insomma, ha vinto un po' il lato personale di Roberto rispetto a quello sportivo. Anche perché sarebbe stato un peccato andare magari a Rio per non essere il solito Cammarella, insomma. Ma non sono mai stato uno che vuole fare il gradasso, ma credo che se l'avessi fatto la scelta di andare avanti sarei stato competitivo. Ho dimostrato di stare abbastanza bene in forma anche nell'ultimo mio appuntamento, al di là di un avversario che me lo permetteva, ma credo che in quegli altri pochi mesi che mancavano a Rio avrei raggiunto una forma accettabile da una medaglia. Senti, quando ripensi alla tua carriera olimpica, ti viene in mente prima l'oro di Pechino o quell'amaro argento di Londra? Beh, nonostante sono un perfezionista e quindi mi dispiace sbagliare, credo che vengo ricordato, e così mi ricordo di essere il campione olimpico. È un sogno realizzato, un appuntamento che uno lavora un'intera carriera, e quindi inevitabilmente quello è il ricordo più bello a cui, più che ricordo io, vengo legato agli altri, e io li ricordo tutti con piacere, vittorie e sconfitte, perché fanno parte della mia storia sportiva e personale, quindi io ognuno sono legato. È un percorso olimpico che iniziò, diciamo, sul podio ad Atene 2004, perché quel bronzo tante volte noi critici, giornalisti, tendiamo a dimenticarcelo. Tu che invece ce l'hai al collo, direi che quello è stato un primo gradino del podio davvero prezioso. Ma senz'altro è stato importante, perché credo che sia nata lì la vittoria di Pechino, perché non vuole essere più al gradino più basso, sia stato una scintilla importante per quanto mi riguarda, perché dovevo riscattare questo soltanto bronzo di Atene. And Damiani, the silver medalist from Los Angeles, is now coached a gold medal winner, Roberto Cavadelli of Italy. Senti, a Pechino credo che sia stato un po' il punto più alto della tua carriera, per la perfezione stilistica che pure un pugile stilisticamente perfetto come te ha saputo esprimere. Direi che in quell'occasione più che in altre sei stato veramente il killer gentile, anche se poi al cinese in finale veramente gli hai fatto male, eh? Io c'ero, devo dirti, insomma, non sembrava una finale olimpica. Ma in realtà non è stata così semplice, perché io il primo match sì, ho incontrato un croato e ho vinto agevolmente in scioltezza, ma ai quarti ho incontrato un pugile ostico e ho fatto un match di intelligenza, ma che non è piaciuto ai tecnici, che mi hanno spronato a fare molto di più, e ho assolutamente rivisto il mio modo di combattere per poter dare di più, ma sotto il profilo tecnico. Paradossalmente i match poi sono finiti prima del limite, con due, pure dalla semifinale che la finale, con due colpi meravigliosi. Rimane, e adesso poi arriviamo a Londra, però anticipo la domanda che forse starebbe meglio dopo, però anche la disamina che hai fatto in questo momento mi fa pensare al problema delle giurie, no? Cioè, nel senso che a livello dilettantistico c'è la necessità di far vedere delle cose, al di là poi del proprio stile personale, della redditività della propria box, perché comunque non si sa mai come va a finire con questi cartellini. A livello olimpico ancora si fa fatica a trovare giudizi qualitativamente elevati, o sbaglio? Purtroppo sì, paradossalmente spesso bisogna attendere i primi incontri per capire come giudicano in generale il pugilato, e può variare da torneo a torneo, e ti devi far trovare pronto, adeguarti alle loro idee di valutazione. Mario Giambuzzi, telecronaca, anche Patrizio Oliva, e anche nel mio caso non possiamo fare altro che farti i complimenti, perché per noi tu sei il campione, per noi tu sei la medaglia d'oro. Scusate, rispetto, ma non basta. Dovevano giudicarlo 5 giudici che non me l'hanno data la vittoria. Qui andiamo a Londra 2012, credo, ecco, è più rimpianto, più l'amarezza, ti rimproveri qualcosa per quell'oro sfumato, secondo insomma l'opinione dei più, anche e soprattutto per decisione della giuria? Ma dei più, tra cui io, sì. Inizialmente mi è un po' venuta la sindrome, ma se avessi fatto, e poi ho capito e riguardato il match, che ho fatto tutto quello che in quel momento avevo dentro di me e che dovevo fare. Dopo il giudizio non sta a me, ma a altre persone che l'hanno vista in maniera diversa. Posso un po' parzialmente giustificare col fatto che, essendo il caso dell'inglese, ogni suo avvicinamento sembrava avvenisse uno scontro, ma in realtà non è poi così, e un giudice che sta sotto il ring lo dovrebbe vedere bene e non farsi influenzare dal rumore dei tifosi che sono alle sue spalle. Senti, ti chiedo qual è stato in questi anni l'avversario, quello che veramente non ti faceva dormire alla vigilia? Ma dormire alla vigilia nessuno, perché io ho dormito tranquillamente affrontando tutti. Ovviamente ricordo quello che con più rammarico ho incontrato 5 volte, con cui ho perso tutte e 5, che è Alexander Povetkin, il russo, vincitore delle Olimpiadi poi di Atene 2004, 2 volte mi ha anche battuto ai campionati d'Europa. Francamente nessuna delle 2 volte secondo me lo aveva fatto, ma così hanno deciso i giudici, ma bene così. E quindi il rimpianto poi è fondamentalmente per quello, perché avrei sicuramente meritato di vincere almeno un europeo sui miei 3 affrontati. Roberto Cammarelle, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te di avermi chiamato, e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.